Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento con NBA Week, la trasmissione settimanale in podcast sulla stagione NBA 2017-2018 per Radio Big World. Siamo freschissimi reduci dalle prime due sfide di finali di conference, sia ad est che ad ovest. Partiamo quindi rapidamente con la cronaca, guardando per prima ad est come consuetudine. Difficilissimo era nelle idee di Cleveland portarsi a casa una sfida dal TD Garden per tutta una serie di fattori, ma l'obiettivo della squadra guidata teoricamente da Tyronn Lue in panchina, ma profondamente LeBron-centrica come ben sappiamo, era proprio quello di tornare in Ohio con almeno una gara conquistata. Dall'altra parte, giusto ricordarlo, una squadra, quella di Boston, tremendamente giovane nei protagonisti, straordinariamente operaia per indole, incredibilmente falcidiata dagli infortuni, che tornava a giocarsi il titolo della Eastern Conference dopo l'impresa dello scorso anno. Un'impresa che venne vissuta come tale, ma che impallidisce rispetto al capolavoro proposto e promosso da coach Brad Stevens con una squadra priva delle sue due stelle principali arrivate in estate, cioè Kyrie Irving e Gordon Hayward. In questo, il risultato momentaneo dei valori dei due roster in sfida risulta per certi versi figlio di un percorso simile. Entrambe le squadre hanno, volenti o nolenti, annullato le risultanti di un mercato che le aveva viste incrociarsi giocatori importanti, ritrovandosi all'atto conclusivo di conference con una Boston teoricamente indebolita nel roster, cioè non ci sono Crowder e Thomas rispetto alla squadra dello scorso anno, a godersi però giovanili esplosioni come quelle di Jalen Brown, quella di Terry Rozier e quella del clamoroso rookie Jason Tatum. Quel che sia successo e risuccesso a livello di mercato in casa Cavaliers lo sappiamo fin troppo bene, ma è sufficiente sapere che il quintetto che Coach Lue ha schierato in gara 1 vede solo George Hill come nuovo a sostituzione di un Kyrie Irving notoriamente andato via rispetto allo scorso anno ed un ripescaggio di un veterano come Kyle Korver costretto a diventare perno di squadra in questi playoffs dopo essere stato pesantemente marginato quasi fuori rotazione 12 mesi fa. Anche in gara 2, a livello di starting lineup, la questione è la stessa, con il quintetto storico della Cleveland campione, cioè con Tristan Thompson di centro ed il sostanziale cambio di Hill con l'andato Kyrie Irving. Anche questo discorso dovrebbe essere sufficiente ad evidenziare quanto, in sostanza, i Cavaliers siano nettamente più deboli dello scorso anno a livello di valori, ulteriormente considerando l'apporto degli altri nuovi arrivi e più generalmente l'apporto della panchina non sufficiente ad oggi. Come avevamo accennato in precedenza, il TD Garden continua ad essere un fattore in questi playoffs e purtroppo per LeBron e compagni potrebbe essere destinato a rimanerlo. In gara 1 la partenza della squadra ospite la dice subito lunga sull'andamento della partita, con una serie di mattonate sul ferro in attacco, soprattutto da dietro l'arco, subendo nell'altro fronte canestri da ovunque e comunque. Come si suol dire, il canestro sembra veramente una vasca da bagno per i ragazzi di Coach Stevens e questa concretezza offensiva è probabilmente, anzi indubbiamente, sponsorizzata da un lavoro grintoso, aggressivo e produttivo nella metà campo difensiva. Boston inizia da subito ad ingabbiare LeBron James mettendogli di fronte Marcus Morris, autoproclamatosi LeBron Stopper, ma principalmente aiutando e ruotando in continuazione per metterlo fuori ritmo, contemporaneamente complicandogli la visuale e le scelte. Il risultato è che il re va fuori ritmo veramente ed i Celtics sfuggono via trascinati da un Al Horford capace di far tutto quello che serve quando serve in entrambi i lati del campo. Ma la prestazione sia offensiva che difensiva di Boston è assolutamente corale, sicuramente di impatto, con un Terry Rozier stavolta un minimo sottotono, malgrado lui però i martellamenti offensivi in attacco di un Jalen Brown che chiude con 23 punti totali, ed un Tatum sinceramente impressionante per consapevolezza, come diciamo praticamente sempre oramai da tempo, sono più che sufficienti per chiudere la gara con una vittoria. Marcus Morris, il LeBron stopper, è destinato ad essere tra i migliori in campo, se non il giocatore della gara. Per prima cosa perché LeBron gioca una delle sue peggiori partite nei playoffs di sempre, probabilmente, con 15 punti, 7 palle perse, 5 su 16 dal campo e 0 su 5 da 3 punti. Ed è lui, cioè Marcus Morris, il dichiarato timoniere del team destinato a limitarne le gesta. Seconda cosa, perché comunque lo stesso Morris chiude statisticamente anche con 21 punti e 10 rimbalzi con 3 su 4 da dietro l'arco. Ah, A proposito di tiri da dietro l'arco, i Cavaliers chiudono la serata con un pessimo 4 su 26, mentre Boston con 11 su 30. Differenze ritrovabili mettendo in paragone il 36% totale dal campo di Cleveland con il 51% dei Celtics. Statistiche elementari che servono a dimostrare gli abissi che distanziano l'efficacia difensiva delle due squadre ed il fatto che in gara 1 non ci sia stato partita. Anche quando LeBron e compagni riescono a portarsi sul meno 14 con un buzzer beater alla fine del terzo quarto, vengono tremendamente ricacciati indietro subito nei primi secondi di ripresa ed il resto è puro garbage time. Proprio alla luce di una pessima prestazione di James in primis e di tutta la squadra comunque, in tanti si aspettavano i fuochi d'artificio in gara 2, destinata a diventare sfida decisiva proprio in virtù dell'importanza per la squadra in trasferta di violare il campo della squadra di casa nelle prime due sfide. James sarebbe partito fortissimo, lo sapevano tutti, anche e soprattutto alla faccia del cosiddetto LeBron Stopper, in barba a tutta Boston e memori delle sue sfide con Indiana e Toronto. Quindi, che l'avrebbe vinta lui da solo, probabilmente lo pensavano anche i tifosi dei Celtics accorsi al TD Garden. Ed infatti il suo avvio è assolutamente devastante, con 21 punti nel primo quarto, forse sfogato anche con troppe energie, destinate a rimanere perdute per strada in seguito, quando Boston inizia a lavorare concretamente per rientrare. Sì, perché nonostante il numero 23, i Celtics restano coscientemente aggrappati alla partita con l'obiettivo di aggredirla alla ripresa dalla pausa lunga, sfruttando difesa e gioco di squadra come consuetudine. Al tirare il fiato di James ci pensa Kyle Korver e stavolta un Kevin Love redivivo a sostenere una squadra ancora una volta priva di un sistema, priva di soluzioni alternative, priva di un supporting energetico dalla panchina. Complice la stanchezza momentanea, attorno a James si forma di nuovo quel sistema che, a fine partita, lo porterà comunque a perdere 6 palloni e per i Cavaliers saranno 15 le palle perse totali a fronte delle 5 di Boston, anche se alla fine i suoi numeri parlano per lui e determinano una novità rispetto alle previsioni di questa serie. LeBron chiude con 42 punti, 16 su 29 dal campo con 5 triple, 10 rimbalzi e 12 assist. Gioca anche per vincerla da solo, coadiuvato comunque da 22 punti e 15 rimbalzi di Love, predicando in un deserto di squadra dove si intravede solo a sprazzi Kyle Korver. Stavolta, al perseverare nella mancanza di punti di appiglio, neanche da solo, neanche segnandole più di 40, riesce ad avere la meglio su una super squadra destinata ad andare alla Quick Loans Arena con una tranquillità che rende fattibile l'obiettivo di tornare a Boston sul 3-1, con la possibilità di chiudere la serie. Serie quindi finita? Secondo me assolutamente no. Cleveland ha modo di poter rientrare tra le mura amiche, spinta dal suo re e da ritrovate percentuali di tiro del resto della squadra, magari riuscendo a tornare in Massachusetts sul 2-2. Servirà tutta l'esperienza del mondo ed una serie di concatenazioni incredibili a livello alchemico per provare ad avere la meglio su questi Celtics nella loro casa, almeno che mentalmente qualcosa non cambi in peggio nella truppa di coach Stevens, tutto sommato ancora inesperiente, quantomeno sulla carta in media. Non vedendo possibile uno sweep, vedo gara 5 decisiva sia che Boston ci arrivi con un vantaggio capace di pensarla come ultima della serie, sia che le due squadre arrivino pari a giocarsi l'inerzia del confronto. Certo che al momento la favoritissima, e non solo per l'evidente vantaggio di due sfide a zero, è una Boston meritevole per gioco, quadratura e spirito di sacrificio. Non avrebbe una chance che sia una di sperare in un upset incredibile una volta raggiunta la finale, ma probabilmente neanche Cleveland, ed a prescindere da chi ci sia ad ovest, ma già ottenerla per Boston sarebbe suggello di una stagione incredibile sotto tutti i punti di vista, una stagione sostanzialmente da applausi. Assolutamente serie non destinata ad esaurirsi velocemente quella che si sta svolgendo ad ovest tra Houston e Golden State. Dopo gara 1 in Texas e la vittoria più che convincente dei Golden State Warriors, nonostante un Harden da 41 punti, in molti avevano già gridato alla passeggiata per i ragazzi di Steve Kerr, che hanno convinto di meno però in gara 2 con la serie che adesso si sposta ad Oakland in totale equilibrio. I Warriors giocano la prima delle due sfide in modo ben organizzato, ottenendo il risultato migliore possibile, quello che li pone nella condizione di poter essere attendisti nelle mosse e fiduciosi per la doppia sfida casalinga in previsione. Difensivamente la squadra di Kerr si dimostra preparata a neutralizzare il contorno ad un Harden strepitoso, permettendo i lunghissimi isolamenti del barbone che molto spesso domina offensivamente, ma che impediscono al supporting cast di entrare in partita, eccezion fatta per un Chris Paul da 23 punti e 11 rimbalzi. Harden può permettersi di fare quello che preferisce in attacco, con tutti i limiti conseguenziali del caso, tipo bloccare il flusso di gioco a lungo, impedire l'entrata in ritmo offensivo della squadra, forzare soluzioni negli ultimi secondi dei 24 disponibili per azione, con eventuali soluzioni improvvisate. Dall'altra parte invece Kevin Durant gioca una partita perfetta, è chirurgico, preciso al tiro e sembra trasformare in oro tutto ciò che tocca. Una sorta di remida del basket come poche altre volte c'era capitato di visionare. Chiude con 37 punti, ma è ancora una volta impressionante la sua capacità di segnare sempre ed in modo assolutamente pulito quei tiri che servono ad affossare l'avversario anche e soprattutto con coefficienti di difficoltà elevati. Accanto a lui ci pensa Klay Thompson con 6 triple e 28 punti, al solito sempre presente sugli scarichi all'interno di un sistema di gioco che si pone in modo opposto rispetto a quello dei Rockets. Aggressività difensiva in cerca delle transizioni numericamente favorevoli, altrimenti circolazione di palla ossessionante, tagli continui alla ricerca della miglior soluzione balistica possibile. E se la palla si ferma in mano a qualcuno in isolamento, quello non può che essere Durant, che sostanzialmente non sbaglia mai. Anche perché la terza stella della squadra, cioè Stephen Curry, gioca statisticamente una gara sottotono rispetto agli altri. Chiude con 18 punti e solo 1 su 5 da dietro l'arco, seppur con 8 assist e 6 rimbalzi. Tuttavia risulta a tratti decisivo con le sue penetrazioni. Difensivamente appare per momenti sofferente, ma in altri assolutamente importante, come nel recupero su Harden che lancia la schiacciata di Iguodala, probabilmente una delle azioni decisive nella gara per inerzia. Soprattutto gioca da regista, gestisce i compagni, si dimostra leader in campo. E lo stesso vale per Draymond Green, che pur non emergendo attraverso le fredde statistiche, determina difensivamente il parziale nel terzo periodo che fa virare la gara dalla parte degli Warriors. Una squadra che predilige da sempre il rientro dalla pausa lunga per provare la fuga decisiva e che spesso la attua attraverso l'entusiasmo difensivo ed il cambiamento di fronte conseguente, capace di generare sempre bottini importanti in materia di punti e parziali. I Rockets resistono così due quarti in parità, provano a ritardare l'arrivo di questo momento, ma dal terzo quarto e dal parziale preso non si riprendono praticamente più. In gara 2 le cose appaiono immediatamente diverse, però, proprio a livello di atteggiamento per i ragazzi guidati da D'Antoni. Partono subito fortissimo nella partita, riuscendo a garantirsi un buon vantaggio allo scadere del secondo quarto e da lì amministrando e soprattutto resistendo indenni al terzo quarto degli Warriors, divenuto oramai proverbiale. Curry e Thompson stavolta tirano male ed anche l'impatto del resto del gruppo non appare lontanamente vicino a quello di gara 1. Si salva solo un Kevin Durant a 38 punti, apparso però solo sull'isola una volta tanto. Houston invece imposta la sfida in un modo sostanzialmente diverso. Stavolta Harden gestisce i possessi trasformandoli in isolamenti un tantino di meno ed il risultato si vede, favorito finalmente da una prova corale che vede come giocatori chiavi un Trevor Ariza a 19 punti ed un PJ Tucker con 5 su 6 dietro l'arco per 22 punti. Ancora una volta sottotono Capela, mentre Harden chiude con 27 punti e 10 rimbalzi, ma stavolta tira un tantino peggio e comunque sempre troppo dal campo. Malgrado questo, Eric Gordon dalla panchina fa registrare 27 punti con 6 su 9 da 3. I Rockets in generale realizzano 16 triple con il 38% di realizzazione contro le appena 9 degli Warriors su 30 tentativi. La serie si sposta quindi sull'1-1 alla Oracle Arena, dove Curry e compagni saranno motivatissimi e determinatissimi a far bottino pieno per giocarsi senza pressioni le chance di passaggio del turno a Houston. Prospettiva non impossibile da immaginarsi in effetti, perché tornare in Texas sul 3-1 per Golden State sarebbe preferibile e permetterebbe loro di poter, nella peggiore delle ipotesi, conquistare la finale con una gara 6 giocata in casa. La varietà di soluzioni offensive e l'infallibilità di Durant rendono i Warriors assolutamente favoriti ai miei occhi, dove dall'altra parte Harden appare al solito troppo bidimensionale nel gioco e la squadra sembra poterne soffrire. Inoltre, Stephen Curry, evidentemente non ancora vicino all'80% della condizione fisica, deve ancora accendersi al tiro in questa serie, un momento che probabilmente non tarderà ad arrivare, forse già da gara 3. Difficile pensare ad un upset di Houston, anche se riuscissero mai a tornare in Texas con la serie ancora in parità, una possibilità di inerzia mentale sul tutto l'avrebbero pure. Ci aggiorneremo a questo proposito la settimana prossima con il nostro podcast sulla stagione NBA. Per leggervi qualche aggiornamento potete cercarci su Facebook nella nostra fanpage che si chiama appunto NBA Week. Per ascoltarci ci trovate tutti venerdì sera ed in podcast su Radio Big World, tutti sabati mattina nel canale YouTube di Belli 13, tutte le domeniche pomeriggio su Radio Valdarno, anche qui in podcast nel loro sito ufficiale. Grazie per l'ascolto, ci risentiamo tra 7 giorni con NBA Week.